idea. Manca il tintinio del ghiaccio, perché non hai portato i bicchieri, niente. Sa, chiama il bar, dai. Ma ci va lo zabaione qua, perché è la canzone di Natale, capito? Si beve zabaione con rum, col grappone, ci si ubriaca, poi si vomita perché l'uovo è pesante. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Che giorno è oggi? È venerdì, Kappa. Vedi, oggi è venerdì. E quindi devo andare. Come devi andare? È un appuntamento importante, Drago, venerdì. Fino alle 5 devi stare qui, anche se venerdì. No, ma è venerdì. E allora? E allora, negli uffici, Drago, è già cominciata la manovra d'atterraggio, capito? Come la manovra d'atterraggio? Sì, sai quando sull'aereo ti dicono... che tu non hai capito, è iniziata l'aste, così ti procedura, e tu ti allacci le cinture, stai bravo perché stai per atterrare, ti caghi anche un po' addosso, no, puoi cagare addosso, Drago, non si dice, non si dice in aereo, non si dice. Ma qualcuno dovrebbe dirglielo. Ma chi? Gli autori dei talent show, che sono diversi dai reality show, che però comprendono una parte anche di reality. Certo, il talent degli autori. È quello dove vanno, non so, a fare la band o fare, che ne so. Vabbè, X Factor è un talent show. Okay. Però ce ne sono di tanti altri tipi. Ad esempio, il più famoso, forse più seguito, è MasterChef. MasterChef. Forse io vivo in un altro mondo. Dov'è che va in onda? Cielo. Io cielo. Vedi. Però non lo vedi. Vabbè, comunque MasterChef è una gara di cuochi che devono cucinare, però naturalmente essendo la performance del cuoco, diciamo, distesa sul tempo, perché insomma cucinare c'è un'ora, due ci ore, metti così, delle ore, non possono farti vedere tutti i momenti, no? Certo. E però evitano quella cosa che fanno invece altri programmi di cucina dove c'è il cuoco che ha già tutto cucinato. Ti fa, ecco, fai così e poi diventa così. E poi diventa cos'altro. Però non capisci. Montano, come. Tagliano. Invece fanno, lì, no? Sì, ho capito, montano, tagliano e fanno, ma qual è il problema? Che devono, per motivi, non so, autorali appunto, far sì che i concorrenti commentino in tempo reale quello che stanno facendo. Capito? Quindi devono per forza girarli dopo. Sì. Quindi cosa c'è? C'è la gara, la sfida tra i due cuochi. Che avviene in tempo reale. E viene ripresa in tempo reale. Viene ripresa, poi la tagliano, perché da due ore diventa tre minuti. Sì. In quei tre minuti inseriscono anche dei commenti degli stessi concorrenti. Fuori campo, che fingono voce. Di farsi la cronaca, tipo è qui, mi è caduto l'uovo, ho capito, e quindi, ho dovuto prendere una... hai capito? Comunque il problema dei talent qual è? Che facendogli fare la cronaca a questi poveri cristi che hanno cucinato per due ore, che magari purtroppo sono stati eliminati, cosa succede? Che quello che è stato eliminato si vede che è stato eliminato, perché perché siccome la girano dopo il suo commento, lui lo vedi con i lacrimoni, ma come i lacrimoni, ma mica bisogna piangere, insomma, è una gara qualunque, perché sei perso, tu dici mi è caduto l'uovo, e allora capisci, mi è caduto, lui sta piangendo, quindi vuol dire che dopo l'hanno eliminato. Questo cosa fa? Questo rompe la tensione che gli autori del talent cercano di creare, capito? Perché tu lo sai già, indovini, anzi si fanno le scommesse, si fanno i gruppi d'ascolto, dici, scommetti che quello lì l'hanno eliminato. Ah, perché e chi la guarda, chi guarda da più tempo MasterChef ormai ha capito i lacrimoni tutto nuovo. E quindi parla anche. No, ma vinci un sacco di soldi, scommesse. Quindi lo dicano questi dei talent. Sennò qui potrebbero scommettere loro sulle capite, fare tutta. No, sì. Dopate sì, che se le dopino loro, però. Sì. Ma di cosa stiamo parlando? Buh. Sai chi è Gennaro Albi? Lo conosci? Posso dissentire? Lo conosci o no? Posso dissentire o no? Ma vuoi dirmi se sai chi è Gennaro Albi? Sai chi è? Posso dissentire, sì o no? Sai chi è? Sai chi è? Non serve urlare, io sto dicendo. Ti ho chiesto, sai chi è Geminello Alvi? Non lo conosco. Sei un ignorante come una capra. Torna a casa. Leggi, studia. Non andare in televisione. Geminello Alvi è un intellettuale di centrodestra intelligentissimo. E sarebbe un ottimo ministro. E tu sei un pirla, questo sei. Oh, ma che palle, Sgarbi. Prego, reagisci. Ma però, no, capo, io non mi faccio incastrare così da Sgarbi. Ma come incastrare? I bambini che urlano e fanno i capricci vanno ignorati. Sono le nuove direttive per tutti i genitori. Sono direttive, sì. Che le emana, ste direttive. Sì, le direttive. L'università del Connecticut in collaborazione con quella del Massachusetts. Se no, del Minnesota. Sembra una cazzata, ma è così. Sembra. Cioè, tu scherzaci pure, però per molti genitori questo studio rappresenta in realtà un'ancora di salvezza alla quale aggrapparsi quando i bambini appunto fanno come la Sgarbi, esplodono in urla, disperazione senza motivo. Ascolta, ci volevano gli studiosi del Connecticut, quelli del Minnesota insieme che fanno un brainstorming, certo, una joint venture, per dire una cosa che tutti i genitori sanno, cioè che quando il bambino non ha motivi per fare i capricci bisogna far finta di niente, bisogna ignorarlo, come con Tito. Tito quando vuole gnie, tu fai finta di niente, tu lo sapevi e lui già. Continua a fare gnie, si morde la coda e se la spella diventa come la coda di un ratto. un ratto. Beh, le dimensioni più o meno. Tito, dai! Giù, scherzavo, dai! Vabbè, comunque le cose nei talk show sono degenerate, i conduttori non sanno più cosa fare. Guarda caso, dopo pochi giorni che avevamo lanciato l'allarme qui da Chiedo Asilo, decine di articoli sull'argomento hanno occupato i settimanali tipo di Repubblica, tutti a ruota. Io Donna del Corriere, Guglia Soncini, tutti a ruota, Aldo Grasso del Corriere. Sono Guglia tutti Soncini pezzi grossi di Repubblica. E tutti si sono detti seriamente preoccupati del futuro dei talk show Fight Club. Perché e quindi non si sa più cosa fare la sera, capito? Se non ci sono quelli in TV che si menano. Comunque certo. È arrivata Tata Maria Amelia Monti. Cosa? Allora, rettifico, scusa. Tata Mario Monti. E ha disciplinato l'ambiente. SOS Tata Monti. Ti ho detto Maria Amelia Monti, tra l'altro con le labbra rifatte, irriconoscibile. Ma cosa c'entra, Drago? Non fa mica i talk show politici. Lei fa le fiction, sì, è un'altra cosa. Fa le fiction inespressiva, cioè come fai a fare l'attrice se non puoi esprimere. Sono argomenti delicati, mi si lascia stare, Drago. Stiamo parlando di talk show. Vabbè, allora parliamo di talk show. E Lerner è il trionfatore ormai. Lerner. Noiosissimo. Un po' sì. Perché lui ha sempre invitato illustri studiosi sconosciuti a tutti. Illustri ma sconosciuti. E adesso anche gli altri dei talk show devono far così, capito? Gasparri, La Russa, Calderoli, chi sono adesso? Chi sono? Non chi valgono più niente. Parlamentari qualunque. Quindi per avere i ministri bisogna invitare degli sconosciuti. Adesso ci sono due ministri che conoscono tutti. Uno è il ministro Fornero. Vabbè, perché mi pianto. E l'altro è Corrado Passera. Per via del cognome. E per via della moglie, per la quale vale l'espressione latina nomen omen. Omen dopo che si è sposata, però. Sì. In quanto Passera, dico. Sì, certo. Questo è molto divertente. È Natale, Drago. Ma non è Natale, basta con è venerdì. Ma manca un sacco di tempo a Natale. Non è vero, questo è venerdì. È vero che è venerdì. Quindi è un weekend. E quindi cosa bisogna fare il venerdì, alla fine della puntata? Ringraziare e salutare tutti quelli che contribuiscono a fare Chiedo Asilo. Grazie, cioè, grazie a Guido Bertolotti, ad Alberto Caserini. Grazie a Laura Fagin. E a Carmelo Lauricella. Grazie anche a Tommaso Borbello. E basta. Basta. Ready. Jingle bell.